vecchie abitudini restano meccanici rituali, quotidiani appuntamenti, i riflessi di un passato a cui non vuoi più pensare, ma che ti porti dentro e che si rivela in tante semplici e normali azioni che hanno preso piega in 2 anni insieme, ma che non cambierei anche se mi guardo attorno e scopro troppe cose che non hanno più una faccia, e tutto quello che mi resta sono solo queste vecchie polverose abitudini che un tempo scandivano il ritmo dei nostri giorni e adesso sono malattie di chi in fondo resta uguale, malgrado tutto mentre il resto va da sé. E tu che stai cercando dentro ad uno specchio che non ti rifletterà? Sei cambiata, sei la stessa, quella di 2 anni fa. Ma che importa, tanto tutto passa mentre il resto va. E ci teniamo strette tante piccole reliquie, sono pezzi di un passato, manco tanto tempo fa. L'ho già detto, tanto tutto passa mentre il resto va.